A bordo campo di Dario Ricci. Un grido di gioia, di stupore, d'emozione. Così la sudcoreana Oh Eun-sun è entrata nella storia dell'alpinismo, conquistando l'ultimo dei 14.800 della Terra che ancora mancavano al suo palmarès, la cima dell'Annapurna. E così è diventata la prima donna della storia a conquistare tutti i 14.800, impresa riuscita tra gli uomini solamente al nostro leggendario Reinhold Messner. E allora oggi vogliamo riflettere proprio sul significato di queste imprese estreme, di queste sfide estreme con la montagna e con i propri limiti. E ne parleremo con due grandi alpinisti. Una è una donna, ci aspetta qui, a livello del mare. Nives Meroy, 48 anni, 12.800 conquistati fianco a fianco col marito Romano Benet. Benvenuta Nives a bordo campo. Allora, che impressione le ha suscitato vedere Oh Eun-sun sulla cima dell'Annapurna? Mi congratulo ovviamente con lei perché ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissa. Da parte mia, diciamo che semplicemente non è il mio modo di concepire l'alpinismo e l'andare in montagna. D'altra parte però si è visto negli ultimi anni un crescendo di spettacolarizzazione riguardo questo primato e quindi si è arrivati al punto da puntare esclusivamente al risultato e perdendo così di vista quella che secondo me è l'essenza del gesto alpinistico. Di conseguenza, diciamo, usare tutti i mezzi per raggiungere un obiettivo. Ecco, in particolare fa riferimento ad esempio all'uso dell'ossigeno per arrivare in vetta o ci sono anche altri aspetti rispetto ai quali è critica? Premetto che non si tratta di questioni di stile, ma proprio di questioni fisiologiche che possono dare più o meno possibilità di successo, di ottenere risultati. Quindi oltre all'ossigeno c'è anche l'aiuto dei portatori d'alta quota che vengono assunti per fare il lavoro in montagna e quindi attrezzare la parete, allestire i campi e battere la traccia. Oltre a quello anche l'uso dell'elicottero per trasferirsi da un campo base all'altro, quindi ridurre al massimo i rischi e le fatiche estreme in nome del risultato. C'è anche un aspetto mediatico, no, di questo alpinismo show. C'era ad esempio tutta la TV sudcoreana che ha trasmesso in diretta l'evento. Forse anche da questo punto di vista si è un po' superato il limite. Non dobbiamo demonizzare solo l'alpinista coreana perché non è l'unica ad usare questo stile di salita, perché anche l'alpinista spagnola sale nella stessa maniera. Certo è che l'alpinismo è sempre stato figlio del tempo, del suo tempo, e di conseguenza in un mondo, in una società che tende sempre più a spettacolarizzare ogni cosa, c'è stata la necessità di spettacolarizzare, in un certo senso anche banalizzare questa attività. È logico che quando c'è l'intervento di grossi sponsor ci deve di conseguenza essere anche tutto il battage pubblicitario e l'attenzione dei media. C'è anche da tempo un filone critico rispetto a quello che è l'alpinismo turistico, no? Cioè l'aver reso non solo agli alpinisti d'eccellenza più accessibili gli 8.000 della Terra. Da questo punto di vista qual è la sua posizione? È vero, questo ha aperto le porte a un numero sempre maggiore di persone, appunto, che non hanno esperienza molte volte alpinistica. Questo è ovvio che crea problemi, perché può creare problemi di incidenti, di un maggior numero di incidenti sulle pareti. D'altra parte torniamo al discorso che facevo prima, ossia che l'importante al giorno d'oggi è vivere l'esperienza, che sia in mezzo al mare o in cima all'Everest, l'importante è poter dire di aver vissuto l'esperienza. Le chiedo ancora, ci racconti che effetto fa vedere il mondo da lassù, lei che su 12 di queste cime c'è stata, e poi qualche indicazione pratica su come vivere al meglio il rapporto con queste imprese e con la montagna. Cosa si prova lassù? Io non ho mai provato una sensazione, un senso di conquista. Semmai dal mio punto di vista l'ho sempre vissuto come un senso di appartenenza, e appartenenza a tutto quello che mi stava intorno e in sostanza alla natura. E secondo me per vivere al meglio l'importante sarebbe quello di riuscire a riavvicinarci un po' alla nostra essenzialità e alla nostra naturalità. Grazie a Nives Meroy per essere stata nostra ospite e per averci regalato le sue considerazioni, ma anche le sue emozioni. Dicevamo, l'abbiamo sentita Nives a livello del mare, ma adesso saliamo su una di quelle montagne, perché in linea con noi in diretta satellitare c'è Marco Confortola, il grande alpinista italiano che sta cercando un'altra grande impresa proprio lì dove prima Oe Unsun, dove Nives Meroy hanno scritto pagine leggendarie dell'alpinismo. Benvenuto a Bordo Campo, Marco. Ciao Dario, sono Marco. Come stai, Marco? Come senti, ho mal di gola. Lo sento che infatti c'è... Beh, d'altra parte non è che sei proprio dietro casa, eh? Non siamo al mare e purtroppo qui è un attimo a malarsi. Sono contentissimo di sentirti e ti porto anche i saluti di tutti gli ascoltatori di Radio 24. Grazie, li saluto anche a tutti perché è sempre veramente un grandissimo piacere. Sono tantissime persone che stanno ascoltando, di conseguenza buon ascolto adesso. Allora Marco, chiariamo subito ai nostri ascoltatori dove ti trovi, perché dicevamo non sei al mare e anche qualche metro più su, no? Sì, sono a 5.300 metri, al momento sono al campo base dell'Everest, da sud, e sto tentando di salire il Lhotse, che è 8.516 metri, la quarta montagna più alta del mondo. Quindi un'altra grande sfida per chi della montagna come te ha fatto di fatto la sua casa, no? Sì, è un altro... scusate la voce, ma è un po' andata a farsi benedire. È un altro tentativo di scalata, se tutto va bene questo è il settimo mio 8.000 che salgo. È sicuramente un'impresa particolare quella che stai cercando di portare a termine dopo quanto accaduto nell'agosto 2008 sul K2, lo ricordiamo, l'ascesa fino alla cima, poi nel tornare verso il campo base, la tragedia, 11 alpinisti morti e tu che hai rischiato di perdere la vita e poi l'amputazione delle dita dei piedi. Insomma, è un tentativo questa volta che inevitabilmente è legato anche a quella vicenda, vero? Il problema dopo il K2 è questa amputazione che mi porta parecchio freddo. Infatti il 25 di aprile, che è la giornata di San Marco, io con lo Sherpa, con Pasang, abbiamo tentato di andare al campo 3 a 7.100 metri. Io più o meno a 6.900 metri ho dovuto rinunciare per il grande freddo, i piedi e le mani. Per cui adesso questa grandissima incognita per me è il freddo. Cosa ti ha spinto a tornare lassù, a tornare ai piedi di un 8.000 per tentare una nuova ascesa, dopo quanto è accaduto? Ma penso che sia la grande passione e poi ho voglia di scrivere un altro libro, voglio scrivere quello che può passare una persona, un alpinista come me, dopo un'esperienza del K2, dopo l'amputazione. Nella vita in tante situazioni veniamo messi in ginocchio, però bisogna avere la forza di rialzarsi e continuare. Lo sto mettendo tutto a continuare. Immagino che sia arrivato anche al campo base dove ti trovi la notizia del record dell'alpinista sudcoreana Oe Sun, che ha scalato l'Annapurna e quindi è diventata la prima donna nella storia a conquistare tutti i 14.800. Ci sono anche tante polemiche legate a questo record per le modalità con cui è stato conseguito. Dal tuo punto di vista qual è il tuo parere? Beh, io sicuramente da bravo italiano tifavo comunque Nives Meroy, perché lei finora ha salito 12.800 tutti senza ossigeno, per cui purtroppo ha dovuto rinunciare per i suoi problemi. Io tifo Nives Meroy e Gerlinde Kaltenbrunner, un'altra ragazza austriaca che anche lei ha 12.800, che in questo momento è di fianco alle nostre tende perché è sulla parete nord dell'Everest, noi siamo sulla sud, lei sulla nord. sta tentando di portare a casa il suo 38.000. Io credo anche che il mondo è talmente grande che c'è spazio per tutti, basta comunque rispettare un po' le regole. E rispettare anche le regole che impone la montagna, no? Beh certo, la prima cosa, la cosa più importante è sapere che se noi raggiungiamo la vetta di 8.000 è perché la montagna ci lascia salire, non perché siamo forti noi. È come il mare, come l'oceano, è un effetto natura fortissimo, per cui se qualcuno riesce ad affrontare il mare o la montagna e riesce a uscirne vincitore, è perché l'effetto natura, montagna e mare, ci lascia fare. Marco, ti chiedo ancora, a guardare verso l'alto, a guardare la cima dell'Ozze, che cosa provi? Cosa senti dentro a pensarti lassù, fra qualche giorno, insomma? Ma proprio un momento fa immaginavo di finire questo canale, che è molto freddo, andare verso sinistra, verso la cima, e chiamare mio fratello Luigi dalla cima e dirgli guarda che sono in cima. Però questo è solo un sogno, perché non è così semplice, perché la mia paura, ed è una paura grandissima, è il freddo ai piedi. E allora Marco, da Radio 24, da Bordo Campo, beh, tu hai detto che fai il tifo per molti scalatori, noi in questo momento facciamo il tifo per te e ti auguriamo di saper convivere con le tue paure e saper convivere con le leggi della montagna per arrivare su quella cima, sull'Ozze e vedere il mondo che effetto fa da lassù, per poi raccontarcelo. Speriamo di raggiungerlo, speriamo di raggiungere questo sogno e di portarvi le mie emozioni a tutti voi, a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Beh, lo aspettiamo davvero, Marco Confortola, nei nostri studi, poi per raccontarci questa ennesima sfida, questo ennesimo confronto con la grande montagna. A Bordo Campo. Fedelissimi sia a noi, non vi lasceremo mai. Forza ragazze, vincete per noi. Divertente e simpatico, l'inno dell'Urbino Volley, rivelazione quest'anno del campionato femminile di pallavolo, anche grazie non solo ai risultati ottenuti sul campo dalle ragazze protagoniste nei playoff, ma anche per un'iniziativa veramente simpatica che vogliamo un po' approfondire qui a Bordo Campo. Perché? Perché l'Urbino Volley si è inventato l'aperitivo prepartita. Basta le tensioni delle vigilie, basta i ritiri prepartita, meglio vedersi in piazza, e davvero a Urbino, gemma delle Marche, le belle piazze non mancano, con tifosi ma anche con gli avversari e anche con associazioni del territorio, per brindare insieme, stemperare le tensioni e poi andare tutti insieme a godersi la partita al Palazzo dello Sport. In linea con noi il nostro primo ospite, Francesco Laterza, responsabile della comunicazione dell'Urbino Volley ed inventore di questa iniziativa dell'aperitivo pre-gara. Allora, signor Laterza, come è nata questa idea? Sì, l'iniziativa è nata per cercare di coinvolgere il più possibile i tifosi del territorio, ma anche i semplici appassionati. Avevamo bisogno della massima visibilità, sapevamo che, come dicevate prima, le piazze di Urbino sono delle piazze affollate da giovani, soprattutto universitari, quindi abbiamo pensato bene di fare degli accordi con dei bar o comunque dei locali del centro, dove il giovedì o il venerdì ci si incontrava per cercare di passare un'ora insieme e far toccare con mano, ecco, diciamo, usiamo questo termine, le giocatrici alla città. E devo dire che abbiamo avuto un ottimo successo, siamo arrivati fino a punte di 150-200 persone che erano lì nel bar a fare aperitivi con noi. Siamo stati anche in alcuni circoli tennis del territorio, come quello di Fermignano, dove abbiamo dato il via anche noi all'Aperava, loro l'hanno poi riproposto anche senza di noi, settimana dopo settimana, visto il bel successo che aveva avuto l'iniziativa. So anche che in un paio d'occasioni avete coinvolto le squadre avversarie che venivano a farvi visita per le loro trasferte in campionato, no? Sì, soprattutto degli aperitivi del venerdì, quando si era organizzato il venerdì abbiamo invitato a turno le squadre che dovevamo riaffrontare poi la domenica e quindi qualche volta il sabato per qualche anticipo. Quindi insieme abbiamo cercato di tirar giù quel terzo tempo che esiste nel rugby, noi solamente abbiamo anticipato prima della partita, non la dopo partita. Senta, cifre alla mano, ci dia una stima, quanti aperitivi tra alcolici e analcolici avete offerto nel campionato? Beh, devo dire che ci siamo un po' ubriacati di aperitivi, nel senso che comunque, considerando che l'iniziativa è andata avanti per 6-7 settimane, siamo arrivati, credo, quasi a più di un migliaio di aperitivi offerti. Forza un vino, forza un vino, hey! Hey! Grazie a Francesco Laterza per essere stato a bordo campo. Ci ha raggiunto il presidente dell'Urbino Volley, Giancarlo Sacchi. Benvenuto presidente a bordo campo. Abbiamo scherzato, stiamo scherzando su questo aperitivo che offrite a tifosi ed avversarie, ma immagino che poi gli obiettivi reali di questa iniziativa siano anche altri, vero presidente? Ma vede, questo è un po' uno degli obiettivi che noi ci eravamo prefissi, ovviamente oltre quelli di natura tecnica, che poi sono andati anche al di là delle nostre più rose aspettative, era quello di rimarcare la qualità che il nostro territorio esprime e coinvolgerlo in questa impresa che è diventata di natura qualitativa dal punto di vista tecnico, anche diciamo che è diventata di straordinaria importanza anche dal punto di vista sociale. Siamo riusciti a far diventare il nostro, diciamo così, obiettivo tecnico sportivo un obiettivo dell'intera città, della qualità della città, delle eccellenze che la città stessa esprime, perché oltre all'aperitivo con i tifosi lei deve sapere che da noi gli studenti universitari, perché Urbino è famosa anche per la sua università, hanno l'ingresso gratuito al Palazzetto dello Sport, per cui abbiamo fatto una serie di iniziative, compresa quella dell'aperitivo, per fare in modo che la squadra non sia un fatto solo di natura societaria, ma rappresenti un territorio, la sua società, la sua realtà e il suo tessuto sociale ed economico che sono indispensabili per raggiungere qualsiasi tipo di impresa. Presidente, ci parla di qualità, parliamo anche della qualità di quello che vi siete mangiati in questi aperitivi, perché io conosco un po' la zona, ottimi vini, ottimi salumi, c'è la famosa crescia che è una specie di piadina con dentro ogni ben di Dio, ci descriva un po' un aperitivo. Allora, passando dal serio al faceto, aperitivi ricchissimi con salumi nostrani, ottimi vini dal Bianchero del Metau al Rosso, che è un Trebbiano ottimo, siamo vicini alla Romagna, ma soprattutto con una grandissima e straordinaria allegria e simpatia per drammatizzare anche le tensioni del campo. Ecco, so che avete coinvolto spesso anche le squadre che vi venivano a far visita in trasferta, in campionato. Da questo punto di vista avete trovato qualche emulo, qualcuno che ha deciso magari di importare anche a casa propria l'idea che avete avuto nell'Urbinate? Probabilmente il contagio avverrà il prossimo anno, no? Perché le squadre che abbiamo incontrato fuori casa nel girone d'andata, nel girone di ritorno, hanno apprezzato la nostra ospitalità, ma non hanno potuto ricambiare. Abbiamo con ciò cercato di seminare anche nel nostro ambiente, che pur rimanendo un ambiente sportivo di altissimo livello, perché la pallavolo femminile italiana primeggia in Europa e nel mondo, abbiamo voluto mantenere un target di straordinaria amicizia, di straordinaria simpatia, in modo che ognuno, quando va anche fuori dalla propria sede, dalla propria città, si senta come a casa propria. Il messaggio che noi abbiamo voluto dare, oltre che alla stessa città, a tutti i tifosi, è un modo nuovo di concepire uno sport che è fatto anche ad elevato livello agonistico, deve comunque mantenere sempre un certo target di disponibilità, di simpatia e di cordialità, ed è una cosa che speriamo possa fare breccia. Che effetto le hanno fatto anche le immagini che si sono viste recentemente del dopo derby di Roma del calcio, ad esempio, o di altre situazioni di violenza nello sport di vertice italiano? Direi che quell'aperitivo rischia di andare di traverso, no? Di fronte a queste scene di tutt'altro sapore. Concordo perfettamente con lei. Questo è un problema che non solo mi ha un attimo fatto abbastanza male, ma mi sta anche preoccupando, perché dobbiamo avere chiaramente sempre di fronte un problema fondamentale, è quello che attraverso le varie attività, siano esse di natura professionale fino ad arrivare a quelle di natura ludica, noi abbiamo un grande messaggio da trasmettere, che è un messaggio di crescita culturale e di rispetto degli altri. Se non avviene questo, non ci sono interessi di sorta. Noi abbiamo fallito la nostra missione come dirigenti sportivi, come tifosi e come persone che operano in questa società. Forza ragazze, chi ci fermerà? Dalle tribune il canto si alzerà. Ultimi minuti sotto i torricini di Urbino, dopo essere stati insieme al presidente della società Giancarlo Sacchi, per andare a sentire che cosa ne pensano i tifosi di questa iniziativa, come l'hanno vissuta. E allora, in linea con noi il responsabile del club dei fedelissimi dell'Urbino Volley, Michele Bernardini. Michele, direi che davvero un'iniziativa singolare questa dell'Urbino Volley, è ben riuscita nel corso del campionato, no? Ma molto bene, è una bella iniziativa. Noi siamo gente che ha sempre vissuto dei volley, però quest'anno la novità della 1 ha entusiasmato tutti, quindi essere coinvolti in queste cose è stato sempre ben accettato, insomma. So anche che in diverse occasioni vi siete incrociati proprio per brindare anche con le squadre avversarie, con le loro tifoserie in trasferta. Cocci da raccogliere oppure no? Brindici poi, insomma, in fondo più che pacifici. Tutto, la tifoseria del volley è sempre molto molto pacifica, c'è sempre stata collaborazione fra le tifoserie e problemi non ce ne sono mai stati. Ti chiedo ancora, Michele, alla luce di questo esperimento e alla luce invece di quello che accade in sport più popolari e sicuramente più violenti, e ci siamo capiti, credi che un esperimento di questo tipo appunto possa essere esportabile in altri sport, in altri palazzi dello sport, in altre città? Ma sicuramente questa è una cosa positiva che mette d'accordo tutti, ci fa conoscere, ci fa apprezzare e capire quello che succede nelle diverse squadre, nelle diverse società, nelle diverse realtà, nelle diverse città. Per cui sicuramente è una cosa molto bella, che dovrebbero prendere esempio da questo, insomma, anche altre specialità sportive. Tra i tanti aperitivi che avete fatto quest'anno, ce n'è uno in particolare che ricordi o qualche episodio curioso legato a uno di questi brindisi? Quando abbiamo presentato il nostro club alle ragazze della squadra, perché noi siamo nati a dicembre, a campionato iniziato, e abbiamo organizzato una serata presso la nostra sede, poi è un negozio di prodotti tipici, e abbiamo invitato queste ragazze a conoscerci e abbiamo offerto un bellissimo banchetto. Mi viene da dire, peccato non esserci stato. Sicuramente, ancora molta gente se lo ricorda, anche perché è stato qualche mese fa. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it e riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it. Torniamo con A Bordo Campo domenica prossima alle 14.30, sabato alle 13.15 l'abituale ormai appuntamento con A Bordo Campo Sudafrica 2010 nel cuore del mondiale. Un saluto da Dario Ricci.